Le gioie di quel recipiente tondo e piatto, chiamato pietanziera, coinsistono innanzitutto nell'essere svitabile. Già il movimento di svitare il coperchio richiama l'acquolina in bocca, specie se uno non sa ancora quello che c'è dentro. Scoperchiata la pietanziera, mille profumi escono dall'interno e avvolgono l'aria, creando un vortice di delizie irresistibili. Il coperchio, una volta svitato, fa da piatto e così si hanno due recipienti e si può cominciare a smistare il contenuto. A casa Marcovaldo accadde che Domitilla, per ragioni sue, comprò una grande quantità di salsiccia e per 3 sere di seguito, a cena, Marcovaldo trovò salsiccia e rape. Un piatto che anche solo a pensarlo gli passava l'appetito seduto a stante. A pranzo del giorno dopo, di nuovo, la salsiccia e le rape fredde. Era esausto, si alzò e reggendo in mano la pietanziera, s'avviò per il viale. Oh, che schifo! Salsicce e Ehi, signore, cosa sta mangiando di buono? Dici a me. Io sto mangiando salsicce e Beato te, io dovrei mangiare il fritto di cervella. No, rape. Che buone, non ti piacciono? m'hanno chiuso qui in castigo perché mi sono rifiutato di mangiarle. Adesso prendo il piatto e lo lancio nel balcone. E la salsiccia ti piace? Ah, sì. Peccato solo che da me non la fanno mangiare mai. Che ne dici se ci scambiamo il piatto? Il bambino porse all'uomo il suo piatto con una forchetta d'argento e l'uomo gli diede la pietanziera con l'annessa forchetta di stagno e si misero a mangiare tutti e due, quando ecco che alle spalle del bambino comparì la governante. Signorino, cosa mangia? Salsiccia. E chi gliel'ha data? Quel signore lì, quello sulla panchina. Butti via immediatamente! Cosa vedo nei miei occhi? E il suo piatto? La forchetta? Dov'è il suo cibo? Ha sempre tutto il signore, non è mica scappato. Al ladro! Le posate! Il piatto! Marcovaldo guardò ancora un momento la frittura lasciata a metà. S'avvicinò alla finestra, posò piatto e forchetta sul davanzale e si ritrasse. Sentì il rumore della pietanziera rotolare sul marciapiede. E la finestra chiudersi con gran forza. Si chinò a raccogliere la pietanziera e l'annesso coperchio. Era tutto un po' ammaccato e non si avvitava più bene. Cacciò tutto in tasca e andò al lavoro.